Invitiamo al tavolo il professor Irigoyen, in basco, magari in francese diranno Irigoyen, è questione anche di pronuncia. Veramente studioso eminentissimo che viene dalla Sorbona di Parigi, è direi specialista in un campo che esce molto anche sulla laicità del mondo delle traduzioni, vero? In tutto il campo della grecità, soprattutto, no? E sento quasi con rossore che a Trento è già stato una volta per l'università. Ecco, sono doppiamente onorato di poterlo salutare presente nel nostro istituto e mi auguro che, insomma, ci tenga presente anche in avvenire. A lui la parola per il tema qui indicato, il Salterio, nella versione dei 70. Grazie, professore. Grazie. Prima di leggere la mia relazione vorrei ringraziare il professore Moreschini, che ha tradotto in italiano il mio testo, una traduzione da più, ma non di un testo religioso questa volta. Tra le imprese, il testo è nelle mani. L'abbiamo distribuito. Tra le imprese di traduzione dei testi religiosi, uno dei più antichi è la versione in greco della Bibbia ebraica, iniziata con il Pentateuco, verso la fine del III secolo a.C., continuata con il Salterio nella prima metà del II secolo, l'impresa si prolungherà sino al secolo seguente. Secondo la tradizione, l'insieme del lavoro sarebbe stato eseguito ad Alessandria all'epoca e, secondo alcuni, per l'iniziativa dei Tolomei, i sovrani d'Egitto. Posteriore alla traduzione del Pentateuco, la versione greca del Salterio è servita come modello ai traduttori successivi degli altri libri della Bibbia. Tradurre in greco il Salterio era un compito particolarmente difficile. Da un lato, a causa del raggruppamento di pezzi di date diverse, dall'altro, a causa dell'uso di forme poetiche, i cui principi sono mal conosciuti e sono potuti variare nel corso dei secoli. Infine, perché il traduttore si è sforzato di trovare in una lingua diversa, il greco, dei mezzi linguistici di ordine ritmico equivalenti in misura tanto grande quanto possibile a quelli che forniva l'ebraico. È proprio su quest'ultimo punto che verterà essenzialmente la mia relazione. Nelle lingue indo-europee, il ritmo poetico è fondato sul ritorno a intervalli regolari di tempi segnati, di una sillaba di durata lunga o di una sillaba che porta un accento di intensità, separati da uno o più tempi non segnati. In greco classico, dove l'accento è di carattere musicale, con tre varianti, acuto, circonflesso, grave, il ritmo si fonda sull'opposizione delle sillabe lunghe e delle sillabe brevi. Tuttavia, in seguito alle conquiste di Alessandro, l'uso della lingua greca a tutto l'Oriente, e questa espansione ha avuto come effetto quello di far cadere l'opposizione fonologica tra le vocali brevi e le vocali lunghe e quello di sviluppare nell'accentuazione l'elemento di intensità a scapito dell'elemento musicale, il che comporta l'assimilazione dei tre accenti. Quando, nella prima metà del II secolo a.C., degli ebrei parlanti greco hanno intrapreso la traduzione del Salterio, avevano a disposizione, per dare alla loro versione una forma poetica, due mezzi, oltre alla semplice imitazione dei metri e versi della poesia greca: l'uso dell'accento d'intensità e il computo delle sillabe. Questo è almeno la constatazione che si può fare esaminando il testo greco di alcuni salmi nell'edizione di Ralphs. Cominceremo con un esempio semplice, l'inizio del Salmo 26, ebraico 27, dove il computo delle sillabe e quello degli accenti, tenuto conto della proclisi e dell'enclisi, fanno apparire delle riprese o delle simmetrie incontestabili e per le quali si può supporre che fossero volute dal traduttore. Per rendere più chiara la descrizione, soprattutto nel seguito della descrizione, distinguerò ritmo ascendente e ritmo discendente. Un versetto o un emisticchio che inizia con una sillaba atona ha un attacco ascendente. L'attacco si dirà discendente se la sillaba iniziale è tonica. Parimenti, un verso o un emisticchio che termina con una sillaba accentata si dirà clausola ascendente. La clausola è discendente quando la sillaba finale è atona. Ecco dunque i due primi versetti del Salmo 26. Le lettere che seguono il numero del versetto corrispondono alle linee dell'edizione. La disposizione adottata intende evidenziare gli elementi del versetto. Versetto 1b. Curios fotismos mu kai sotermu, tina fobetesomai. I due elementi di 1b hanno un attacco, curios, tina, e una clausola, sotermu, fobetesomai, e una clausola discendenti. Il primo ha 11 sillabe e 3 accenti, curios, fotismos mu, kai sotermu. Il secondo, 7 sillabe e 2 accenti, tina, fobetesomai. In totale, 18 sillabe, 11 e 7, e 5 accenti, 3 e 2. 1c. Curios, hyperaspistes tes zoesmu, apotinos de Iliasso. Attacco, curios, e clausola, zoesmu, discendenti nel primo elemento. Attacco ascendente, apotinos, e clausola discendente, deiliasso, nel secondo. Il primo elemento ha 12 sillabe e 3 accenti, e il secondo 8 sillabe e 2 accenti. In totale, 20 sillabe, 12 e 8, e 5 accenti, 3 e 2. Versetto 2a. En to engizein epeme cacuntas tu fagein tas sarcasmu. Attacco ascendente e clausola discendente nei due elementi. En to engizein cacuntas tu fagein tas sarcasmu. Il primo ha 11 sillabe e 3 accenti, il secondo 7 sillabe e 2 accenti. In totale 18 sillabe, 11 7 e 5 accenti, 3 2. Versetto 2b. Oi et libontes me kai oi ectroimu, otoi estenesan kai epesan. attacco ascendente e clausola discendente nei due elementi, oi tlibentesme, oi ectroimu, otoi, epesan. Ciascuno ha 10 sillabe, cioè 20 in totale, e 3 accenti, cioè 6 in totale. Se si confrontano questi dati, si constata che i versetti 1 e 2 hanno ciascuno 38 sillabe ripartite in due versi della stessa lunghezza da una parte e dall'altra, cioè rispettivamente 18 e 20 sillabe. Il versetto 1 si contrappone al versetto 2 per il suo attacco discendente, mentre tutte le clausole sono discendenti. Infine, i emisti e mistichi si contrappongono per la loro lunghezza, 11 e 7 sillabe, 12, una di più di 11, e 8, una di più di 7. E il numero dei loro accenti, 3 e 2, eccetto nell'ultimo verso 2b, dove hanno lo stesso numero di sillabe, 10 e 10, e di accenti, 3 e 3. A titolo sperimentale, vale la pena di gettare un colpo d'occhio su un altro libro della Bibbia, prima di studiare in dettaglio alcuni salmi. L'inizio delle parole d'Agur al capitolo 30 dei Proverbi, versetti 1-4, offre dei fatti simili sia per il computo delle sillabe che per la disposizione degli accenti. Bisogna escludere la linea 1C, una specie di inciso indicante chi parla e gli auditori. Non è necessario da leggere, in greco e i cifri avete sotto gli occhi. Allora, nei versetti 1, 2 e 4 CD, i versi sono formati da due emistichi che comportano lo stesso numero di sillabe. 1A e B, 11, 2A e B, 13. 4 C e D, 12, 12. Presi a coppia, i versi costituiscono delle strofe uguali per il numero delle loro sillabe, cioè 48. Versetti 1 e 2, 22, 11 e 11, 26, 13 e 13. Versetto 4 A, B e versetto 4 C, D, 24, 13 e 11 e 24, 12 e 12. Ciascuna strofa di 48 sillabe è seguita da un verso isolato della stessa lunghezza, 19 sillabe, versetto 3, 3A e B, 10 e 9, 19, e versetto 4 E, 19 sillabe. Nelle due strofe, la clausola degli emistichi e dei versi è di ritmo discendente, eccetto per la finale assoluta, dove essa è di ritmo ascendente, la fine assoluta di ciascuna strofa. 2 B, enemoi, 4 D, tes, ges. Nella prima strofa il legame tra i due emistichi è assicurato dalla congiunzione kai. Kai dexamenus, kai phronesis, un errore per phronesis, con eta, non con epsilon. invece della congiunzione kai, ne spar kai phronesis, kai gnosin. Ugualmente, nel verso isolato che la segue, teos de didaken me sophian, kai gnosin agion egnoca. Invece, nella seconda strofa e nel verso seguente, è la ripetizione all'inizio di un pronome aggettivo interrogativo, tis nella strofa, tis anebe, tis unegagen, tis unetrepsen, tis ecratesen, ti più onoma nel verso che segue, ti onoma tu e ti onoma, che mette gli emistichi sullo stesso piano. Come all'inizio del Salmo 26, l'inizio delle parole d'Agur manifesta l'importanza del computo delle sillabe all'interno dei versi e soprattutto delle strofe. Per quanto riguarda il ruolo dell'accento, è incontestabile all'inizio del verso così come nelle clausole. Tuttavia, il computo degli accenti non arriva a risultati così precisi come quello delle sillabe, come mostra il quadro seguente. Allora, per la prima strofa, 4 e 3 per un, versetto 1, 4 e 4 versetto 2, cioè 15 accenti in totale per la strofa, strofa 2. 4A, 4B, 4 e 4 accenti, 4C, 4D, 4 e 5 accenti, cioè 17 accenti in totale, 15 nella prima strofa, 17 nella seconda. Verso isolato 1, 3A, 3B, 4 e 3 accenti, 7 in totale, verso isolato 2, 4C, 4E, non è C, è E. E, 8 accenti in totale. All'uguaglianza sillabica non corrisponde un'uguaglianza degli accenti. Queste prime osservazioni, destinate a mettere in evidenza due fenomeni maggiori, ci serviranno come introduzione e base per l'analisi di alcuni salmi. Allo scopo di disporre di un elemento oggettivo supplementare nella ripartizione dei versetti in strofe, cominceremo con i salmi più rari, che comportano un ritornello, segno indubitabile di una divisione in strofe, e con quelli all'interno dei quali appare la notazione diapsalma, nel senso tanto più poco chiaro in greco quanto la notazione selah del testo ebraico. Cominciamo con un salmo a ritornello, diviso in due nel testo masoretico, come nella versione dei 70. Il salmo 41-42, ebraico 42-43, il primo del secondo libro dei Salmi manifesta la sua unità attraverso la presenza di uno stesso ritornello al centro, versetto 6, e alla fine, versetto 12 del Salmo 41, e alla fine del Salmo 42, versetto 5. Le tre parti così seguite dallo stesso ritornello hanno rispettivamente 168 sillabe, versetti 1 e 5, 193 sillabe, versetti 7 e 11, e 169 sillabe, versetti 1 e 4 del Salmo 42. In altri termini, se si uniscono i due salmi, ci si trova in presenza di una triade di tipo mesodico, due strofe di lunghezza identica, eccetto una sillaba, 168-169, inquadrano una strofa più lunga di 24 o 25 sillabe, 193, che costituisce un mesodo. Il ritornello, identico alla fine delle due strofe uguali, presenta la fine del Salmo 41, una leggera variante all'inizio della linea finale, cioè «è soteria» al posto di «soterion», che rinforza l'effetto di mesodo dell'insieme centrale. Il ritornello ha così 52 sillabe invece di 51. Vale la pena di fermarsi un istante sulla struttura degli accenti della linea finale del ritornello. Soterion tu prosopumu o teosmu. Con un attacco ascendente, soterion, e una clausola discendente, o teosmu, questa linea presenta una simmetria degli accenti perfetta intorno alla sillaba tonica centrale. Lo schema seguente, atona, accento, quattro sillabe, atone, accento, quattro sillabe, atone, accento, una sillaba, atona. Lo schema può in effetti leggersi senza cambiamento da sinistra a destra e da destra a sinistra, fenomeno qualificato di movimento retrogrado degli accenti e quindi ritmico. Le linee 1 e 2 del ritornello presentano anche una simmetria ma limitata all'attacco e alla clausola. Inati, due sillabe atone, accento, suntarasaisme, accento, due sillabe atone. E elpison, attacca ascendente, exomologe somai otto, sillaba, accento. Un altro salmo, il Salmo 45, presenta una doppia particolarità. La notazione di Yapsalma, che appare alla fine dei versetti 4 e 8, lo divide in tre parti. Ma il versetto 8 e il versetto 12, l'ultimo del Salmo, sono identici e funzionano dunque come un ritornello parziale. Il computo delle sillabe delle tre parti è il seguente, non la seguente, il seguente. Versetti 2 e 4, 94 sillabe, di Absalma. Versetti 5 e 7, strofa, e 8, ritornello. 87 e 23 sillabe, di Absalma. Versetti 9 11 strofa e 12 ritornello, 93 e 23 sillabe. Che si ammetta o no la perdita di un ritornello dopo il versetto 4, rimane che due parti uguali, eccetto una sillaba, 94 e 93, inquadrano una parte un po' più corta, 87. Come nel Salmo 41-42, si tratta di una composizione triadica di tipo mesodico. Il ritornello offre due particolarità di accenti. La prima linea, curios ton dynameon metemon, ad attacco discendente e clausola discendente, come la linea finale del ritornello del Salmo 41-42, presenta anche come quella una simmetria intorno alla sillaba tonica centrale. Accento, quattro sillabe. Accento, quattro sillabe. Accento. Curios ton dynameon metemon. O, in altro termine, un movimento retrogrado ritmico. Quanto alla seconda e ultima linea del ritornello, antilemptor emon o teos Jacob, offre un nucleo ritmico che si potrebbe definire anapestico, ripetuto 4 volte. Antilem toremon oteos iacob. Movimento retrogrado ritmico di un lato, movimento ascendente regolare di tipo anapestico dell'altro, ecco due particolarità notevoli in un verso destinato a essere ripetuto, il che è proprio di un ritornello. La combinazione di un ritornello e dell'annotazione diapsalma è eccezionale. Invece, i salmi con diapsalma, scritto di delta, sono relativamente numerosi, in particolare nel secondo libro dei salmi. Senza entrare nei dettagli della dimostrazione, come è stato fatto più sopra, mi accontenterò di dare alcuni risultati con il solo computo delle sillabe. Il tipo di composizione più frequente è la triade mesodica, già notata nei salmi 41, 42 e 45, tipo A, B, A. Salmo 83, 145 e all'opposito 148, Salmo 141, 88, 88. Più rara è la triade podica del tipo AAB, Salmo 3, 48, 47, Salmo 38, 190, 83, 181. Ancora più rara la triade proodica ABB, Salmo 56, 135, 130. Accanto alla composizione triadica si notano dei salmi in dittico con 2 strofe di lunghezza uguale, Salmo 47, 205, 202. E dei salmi che comportano 4 strofe o anche di più, tutte, eccetto l'ultima, seguite dell'annotazione di Yapsalma, Salmo 76, 151, 148, 149, tetrade proodica. Dagli esempi citati sopra, non bisognerebbe concludere che tutti i salmi con diapsalma sono di un tipo regolare fondato sull'uguaglianza sillabiche. Ve ne sono altri in cui la differenza di lunghezza degli elementi separati da diapsalmata è evidente. Tale è il caso del Salmo 66 di struttura ternaria 29, 84, 75. E soprattutto dei salmi molto lunghi di uguale struttura, Salmo 49, 173, 229, 253, o di composizione più sviluppata, Salmo 67. Non è necessario da leggere. Tuttavia, sia che si tratti dell'ebraico Selah o del greco diapsalma, queste brevi indicazioni sono soggetti ad accidenti di trasmissione, per omissione o per spostamento. Bisogna citare a questo proposito il Salmo 75, ebraico 76. L'analisi è la seguente. Versetti 1, 4, 73. Versetti 5, 10, 151, versetti 11, 13, 88. Ma se si sposta la prima notazione di Absalma dopo la linea unica che costituisce il versetto 5, si ottiene una struttura mesodica. 89, 135, 88. Ora, giustamente, nella versione saidica, l'equivalente copto di Diab Salma è collocato non più dopo il versetto 4, ma all'interno del versetto 5. Buon esempio della mobilità accidentale di questa nota. Se non ci sono dubbi sull'esistenza della divisione di certi salmi in tre strofe, delimitate dalla notazione di Absalma, la sua giustificazione potrebbe essere fornita da una tradizione ricordata nella Mishnah, Tamid 7.3. Secondo questa, il Salmo quotidiano del secondo Tempio era cantato in tre parti, con una pausa alla fine di ciascuna. Due sacerdoti soffiavano nelle loro trombe e a questo segnale i fedeli si prosternavano. Ora, sembra che questa divisione tripartita si trovi anche in salmi che non comportano la notazione di Diab Salma. Prendiamo ad esempio il Salmo 94, che con i suoi 11 versetti è abbastanza corto per offrire una composizione chiara. L'esame delle clausole fa apparire due sequenze regolari di 5 linee, l'una con clausola di ritmo ascendente, da 6A a 7C, l'altra con clausola di ritmo discendente, da 10A a 11B. Nelle 10 linee iniziali, da 1B a 5B, le clausole ascendenti sono in numero uguale a quello delle clausole discendenti, cioè 5 da una parte e dall'altra, con l'alternanza seguente. Nei versetti da 1 a 3, discendente-ascendente. Nei versetti 4 e 5, ascendente-discendente. Nelle 5 linee da 7D a 9B, l'alternanza è regolare tra le clausole ascendenti, 8A, 9A, e le clausole discendenti, 7D, 8B, 9B. Se, tenendo conto delle indicazioni così fornite delle clausole, si fa il computo delle sillabe nelle quattro parti, si ottiene il risultato seguente. Non è necessario da leggere. È notevole il fatto che, se si sommano il secondo e il terzo gruppo, si ottiene un totale, 60 e 72, 132, vicino a quello del primo gruppo, 134. Ma il totale è ancora più vicino se si associano il terzo e il quarto gruppo, 72, 63, 135. L'esame del testo stesso apporta dei dati supplementari che confermano il secondo raggruppamento. Tre linee soltanto hanno un attacco di ritmo discendente. 1B, Deute, 6A, Deute, 7D, Semeron. Tutte e tre si trovano collocate all'inizio di uno dei tre primi gruppi costituiti qui sopra. La ripresa di Deute, che corrisponde qui a due parole ebraiche differenti, sottolinea una divisione in tre parti, di cui l'ultima riunisce il terzo e il quarto gruppo. La composizione così stabilita sulla base dei dati degli accenti e del computo delle sillabe è del tipo mesodico A, B, A, già riconosciuto nei salmi con Diab Salma. Una tale divisione si accorda con il contenuto del testo. A. Inno a Dio, creatore e sovrano dell'universo. B. B. Inno a Dio, creatore e pastore d'Israele. A. Esortazione all'obbedienza, alla differenza del comportamento adottato per loro sfortuna dagli antenati usciti dall'Egitto. Essa è confermata infine dal movimento stesso del testo. Le parti A e B cominciano con dei congiuntivi esortativi alla prima persona plurale, 4 da 1B a 2B, 3 a 6AB, seguiti da tre doppie giustificazioni introdotte ciascuna da OT in A, da una tripla giustificazione introdotta da un solo OT in B. Così, nonostante l'assenza di ogni annotazione, il Salmo 94 presenta una composizione in tre parti, dove gli effetti degli accenti e il computo delle sillabe hanno la stessa funzione che nei salmi con diapsalma. Quali conclusioni trarre da questa serie di osservazioni sulla misura sillabica dei salmi con ritornello o con diapsalma? La prima è che le corrispondenze notate tra strofe, con variazioni di una o due unità, tre o quattro sillabe tutt' al più, non possono essere un semplice effetto del caso, poiché è possibile notarle in un certo numero di salmi. Bisogna dunque, seconda conclusione, attribuirle a una volontà deliberata del traduttore, preoccupato di rendere in greco l'equivalente di un effetto percepibile nell'originale. Terza conclusione, che non sembra essere quella degli specialisti dell'ebraico biblico. Basta citare a titolo d'esempio ciò che scrive Paul Dorm nella Bibbia della Pleiade: le sillabe che compongono l'emistichio non sono contate, come nella nostra versificazione francese. Solo la sillaba accentata gioca il suo ruolo nella prosodia. Nella versione dei 70, gli emistichi, versi e versetti, hanno un numero di sillabe variabile, ma tale che il loro totale nelle strofe che si corrispondono arriva a un'uguaglianza assoluta o molto vicina. Quanto alle sillabe accentate, se il loro ruolo sembra evidente in greco all'inizio, attacco, e alla fine clausola dei diversi elementi e mistichi versi, versetti, riuniti per costituire una strofa, la variazione del loro totale all'interno di strofe, che comportano lo stesso numero di sillabe, sembra essere un segno del loro carattere secondario in rapporto al sistema strofico. Le osservazioni presentate sopra, le prime conclusioni che ho appena tratteggiato, non sono che l'inizio di una ricerca molto più vasta. Il Salterio vi occuperà un posto maggiore, ma la ricerca dovrà essere estesa all'insieme dei libri detti poetici e ai passi poetici, in particolare cantici contenuti negli altri libri. I difetti che si notano nella versione greca, oscurità, modificazioni apportate al testo ebraico, eccetera, sono probabilmente in parte la conseguenza della preoccupazione che il traduttore ha di rendere, come in suoi mezzi, degli effetti percepibili nel testo originale. L'uso del salterio nella liturgia della sinagoga e nella preghiera familiare o personale giustificherebbe l'attenzione così accordata dal traduttore ai fatti ritmici. Devo dire che mi sento particolarmente felice di veramente l'enorme vantaggio, la possibilità di scoperte inaudite che fa questa combinazione da un lato di un'autentica filologia, di un amore autentico al logos, vero anche nel suo suono, che non è solo fatto di significati, ma è incarnato in ritmi, eccetera, di autentica conoscenza magistrale della metrica, questa scienza che noi purtroppo nel nostro ambiente ecclesiastico trascuriamo in una maniera vergognosa, no? Una scienza laica, se volete, generale, universale, applicata a una materia eminentemente religiosa, come è la materia salmo, come è appunto il contenuto dei salmi, e di accorgermi come in questa maniera, da un lato, la scienza filologica universale, laica quanto volete, viene arricchita di orizzonti, di completezza, di osservazione e così via, in una maniera che forse soprattutto in Italia si stenta ancora a riconoscere. E dall'altra parte però nel mondo religioso questo sforzo di conoscenza filologica, autentica, aiuta a prendere molto più sul serio e a capire non puramente in superficie questi testi che noi tante volte recitiamo ma sui quali scivoliamo via troppo facile. E sono felice perché in questa combinazione ho sentito riflesso veramente quello che è il nervo dell'interesse di un istituto di scienze religiose come il nostro, che nient'altro pretende se non di aiutare questa compenetrazione. Ecco, in questo senso proprio sento di dirmi riconoscente e di augurare che quanto è detto qui alla fine circa lo sviluppo di questo tipo di studio, vero, che ci aiuterà anche in avvenire, veramente prosegua e si affermi nel modo che è qui desiderato.